ma aspettavo che sta mi diceva c'era ma ti cerca ancora pure sindaglia e non si colma vuoto perché tanca ma la mano mani e man non mi aspettavo che sta mi diceva c'era ma ti cerca ancora pure sindaglia e non si colma vuoto perché tanca ma andavamo insieme uniti una con altri la vita ci ha battuta ci ha fatto naso bene e poi ci ha abbandonato siamo perduti in da sto mare a non sapere bene manca più a lontana, sì. E chi ti cerca e chi mi accorga che chi mi allontana resta un miraggio in dei paraggi e sto conflitto in gol e mo carraccio e cane ma cuore chiagna sangue come calli in mano rindo corpo volo come lave in un vulcano reprimo chiante ma ho bisogno killer a Lucano notte sbanda in sonno quando mi viene a cercare pare che ti è scordata faccio mi votate che non si chiude che lei una volta pure in notte se ne sono attonato non sa chi chiude che la che fai che la che si mo casi è nato ovvero si cammina ma con l'anima chi un casino ho male non mi molle vinta collera ne rolla nata mi esce sangue manca ciò che è curtellato si affolla nel pensiero al raffico una rete nata come macchina in tuo traffico sta manziriato sono stanchi che sta vita caranina ci ha mai spasteriato camminavamo mani e man non mi aspettavo che sta vita ci faceva ma ti cerca ancora pure sindaglia e non si colma vuoto perché